lei più s'accosti. Forse dall'amor di costui prese il fomento le pubbliche querele. Allora ciò pirere! Sorgi, libero parla, ami Griselda. Noi miedo, amor solo, cara Pirro, mi mosse. Né del real mio sdegno ti trattenne il timore. Io tuo rifiuto. Di te, degli avi al sangue sparso a pro del mio regno, io dono il fallo. Signor, una che un tempo fu regina e tua moglie, e scornatò terri fra monti e boschi. Ti intendo, ottone il giuro sulla mia fede. Allora che io mi sposi a Costanza, avrai Griselda. Oh, dono, oh, gioia, al regio che è prostrato lascia. No, prima attendi che la grazia s'adempia e poi la rendi. Va, mi precedi al luogo destinato alle nozze. Ivi vedrai la nuova sposa che al mio trono alzai.